le riviste più importanti, che erano proprio quelle, CQ Elettronica, per me sono stati quelli preferiti, sempre sono stati, cosa che oggi CQ Elettronica mi sembra che non c'è più nemmeno in vendita. Abbiamo buttati via non più di 7-8 mesi fa quelle, le ultime, tu immaginati, sai, alla fine me le avevo messe, sai dove? Presente ce l'hai quei fusini dove c'è la tinta per imbiancare i muri eccetera, sono barattoli di plastica con 14-15 kg di tinta dentro, ci stanno altri, praticamente tipo quegli affari che si usavano per lavare per terra, quei contenitori così alti, e li avevo messi tutti lì dentro, poi erano rimasti in un angolo sempre fermi, sempre in attesa di buttare, non li avevo mai buttati perché la verità non avevo mai il coraggio di buttarli. Poi ultimamente, saranno 6-7 mesi fa, ma sì, stavo buttando altre cose e mi sono caricato anche quello, il portabagagli, addirittura col cestello ce l'ho portato via, poi per non stare lì a impacchettare eccetera, e ho versato il cestello direttamente dentro i contenitori della carta a Sassari, che puoi immaginare. Insomma, erano molto interessanti quelle riviste, io ne avrò una decina. Poi c'era quelle altre Radio Kit, però Radio Kit erano troppo così, pubblicità vera, roba un po' scaccina. E poi una bella rivista che poi l'hanno chiusa, che era un peccato, che quello ha fatto crescere tanti elettroni, radiotecnici, elettrotecnici, Nuova Elettronica, te la ricordi, ha fatto, io di lì, non io personalmente, ho fatto cose elementari, però amici miei, quando avevamo la radio privata eccetera eccetera, aveva costruito un po' di roba, sia trasmettitori che code stereo per trasmettere in telefonia, ed era un bel kit, questo stava studiando all'Inapli, si è preso tutto, l'ha costruito di lì alla scuola, c'erano tutti gli strumenti per tararlo, ma era un apparecchio eccezionale, un po' difficile da costruire, ci voleva attrezzatura, strumenti, perché voleva tararlo. E Nuova Elettronica ti possiede una rivista che ha dato tante informazioni a molti tecnici. Sì, Nuova Elettronica, CQ Elettronica, Elettronica Plastica, Sperimentale, QSO, tante, quanto Onda Quadra, cos'è che non avevo io? Avevo un sacco di riviste tutte di ogni genere, ma praticamente i soldi che mi davano mamma e babbo, allora quando ero ragazzo mi compravo le riviste, se vuoi immaginare, oltre ad andare al cinema e magari a mangiare qualche gelato in estate, mi riprendevo proprio per comprare le riviste, infatti mamma mi diceva, ma sempre con questi giornali in mano, se vuoi andare a fare, cosa c'è da bere? Fatto, no, è roba di radio, cioè, io ho capito, mamma lo sapeva che io ero appassionato di radio, eccetera, no? E allora, perché quando ero a casa di mamma non è che potevo fare molto, nel senso come costruzione, eccetera, però avevo già diverse cose, molte cose ce le avevo, e già mi ingegnavo a fare delle cose, ma ancora era molto giovane, ero un ragazzo, dunque, poi ero nell'ambiente, si può dire, perché facevo allora l'elettricista, facevo, poi invece è successo che sono andato a lavorare da Pinomù a Santa Maria, lavoravo lì perché dove lavoravo prima avevo fallito, e lì c'era il laboratorio anche di TV, radio TV, e c'era un certo Brusa, il radiotecnico, il capo, diciamo, radiotecnico, che era di Usini. Questo uomo lavorava in laboratorio, riparava le TV, le radio, tutte le apparecchiature che concernenti la ricezione, radio televisiva, eccetera, no? E io quando rientravo dal lavoro la sera, allora per continuare a fare l'orario di negozio, rimanevo sino alle 8:30 insieme a lui, anche alle 9 tante volte, perché poi questo non si tratteneva lì, forse faceva straordinario, io non lo so, probabilmente era così, e poi veniva accompagnato a Usini, perché lui abitava ad Usini, e allora c'era l'autista di Pinomù e mi diceva, Giulio, ci viene a farmi compagnia, che portiamo a Sir Brusa, la portiamo a casa sua. Fatto sì, infatti tante volte anche al ritorno, nonostante che io ancora ero minorenne, non avevo patente, non avevo niente, mi faceva anche guidare durante la notte al ritorno, perché già guidavo da ragazzino io, no? naturalmente lui era lo scelerato, perché lui era un uomo grande, io ero un ragazzo, e si fidava a darmi la 600, la 600 quella con la con lo sportello che si apriva davanti quando le donne scendevano, che si vedevano le mutande come scendevano, quel tipo di 600 aveva il principale, e dunque l'autista la prendeva per accompagnare il radiotecnico tutte le sere a Usini. Sì, Brusa già li conosco, io ho un'amica, Giovanni Brusa, che poi a Usini sono il cognome più importante, perché il bar principale di Usini è Brusa, io l'ho conosciuto perché ha giocato a pallone nella nostra squadra, probabilmente è parente di questa persona che mi stai dicendo tu. E la rivista che dicevo io del Radio Amatori si chiama Radio Rivista. Sì, sì, sì, anche quello, Radio Rivista, ma tutte, io le ho prese tutte, chi più chi meno, però diciamo che i numeri che preferivo delle riviste erano Circo Elettronica ed Elettronica Pratica, ecco, anche Elettronica Pratica era una rivista molto ma molto interessante, perché c'erano molti schemi elettrici, insomma, che ti insegnavano tanto, ti insegnavano veramente tanto, e passione ci voleva, e soprattutto bisognava comprare, allora soldi non ce n'erano, sai, ero ragazzo, ero molto giovane, e dunque soldi non ce n'erano, anche perché quando io lavoravo i soldi che guadagnavo li davo sempre a mamma, tutti, io ho sempre dato tutto lo stipendio a mamma, e poi mamma il sabato mi dava i soldi magari per andare al cinema, no? E così via, tante volte al cinema non ci andavo, e allora mi compravo le riviste, mi compravo, insomma, me le spendevo così, capito? Vabbè, per cui altri tempi, non è come oggi, no? Già lo so, no, io le riviste quando ero ragazzo, diciamo dalle superiori, mia madre mi comprava sempre, infatti tutta la cultura mia di alta fedeltà me la sono fatta lì, Suono e Stereo Plus, fino agli anni 95-94 li prendevo due riviste al mese, Suono e Stereo Plus, mi hanno fatto tutta la mia cultura di coso, di mentre su CQ Elettronica avevo costruito, quando avevo la prima radio, avevo costruito due collineari a due elementi in verticale, montati in verticale, era un dipolo chiuso a due elementi collegati insieme con gli accoppiatori, avevo fatto una bella antenna, un lavoraccio, perché a piegarli, a chiudere un dipolo sembra così, in alluminio non è uno scherzo, poi dovevi calcolare tutti le impedenze perché erano disaccordate, dovevi fare delle ispezioni calcolate per avere quel valore giusto, e dovevi portarla a 52 ohm, e poi avevo costruito quello stesso lavoraccio, che adesso li vendono già pronti, un filtro a tre celle, ho costruito in officina con del rame, avevo fatto una cassettina, una scatolina con tre celle dentro per limitazione di coso, la seconda armonica, però sarà stata più la perdita che altro, però tutto saldato, tu non hai il lavoro che c'è voluto per saldare tutte le lamelle interne, perché c'erano le celle interne, costruire un filtro a coso, a cavità, diciamo, come questi per togliere i disturbi, non è semplice, solo in officina lo puoi fare, saldare le celle dentro, puoi mettere questi cose, adesso non mi ricordo neanche come l'avevo fatto, però ce l'avevo conservato sino a qualche tempo fa. Sì, dei filtri passamasso facevi, ho capito, sì, anch'io ce l'avevo qualcosa, no, ancora ho un coso io, un accordatore d'antenna autocostruito da me dentro una scatoletta di alluminio, quanto sarà grande, sarà 7-8 cm questa scatoletta, perché compravo anche queste cose, no? Perché poi la costruivo e poi andavo e compravo i contenitori adatti in alluminio, anzi ne ho uno addirittura, uno grande, sarà non meno di 15 cm, forse anche di più, per 10-12 di profondità e di altezza, saranno 6-7 cm, che non ho mai usato, ce l'ho sempre conservato, e non l'ho mai utilizzato, perché l'avevo preso, che dovevo fare un amplificatore, dovevo fare, e invece poi mi è passata la voglia e non l'ho mai fatto, ma ero già grandetto allora, ero già abbastanza grande in quei tempi. E a proposito del Radio Galena, poi oltre al fatto che funzionava senza corrente elettrica e senza batteria, niente, l'avevo poi attaccato a degli amplificatori, uno di questi e anche un amplificatore, cioè io ho a casa uno strumento musicale, un farfisa, no? Tu immaginati un comò di una camera da letto, e lì c'è l'organo e la tastiera del pianoforte, no? Poi ci sono tutti gli strumenti, ci sono i vari pulsanti, ci sono, tu schiacci un pulsante per dire vuoi il rock e ti fa la musica rock, vuoi che sono io più bassi, e schiacci quello e così ottieni il basso e così via, no? Ma una scheda di strumenti ci sono tutti. Poi c'è anche un pedale che quello fa da batteria addirittura, io non lo so suonare, la verità, no, io qualche volta l'ha suonato mio cognato, che allora faceva il musicista, e penso che lo faccia ancora, non lo so, adesso non ti dico, penso, perché so che si è separato dalla moglie, per cui no, è un po' di tempo che non l'ho più visto, però quando veniva lui già lo suonava, la verità, era un bello strumento, era un farfisa proprio professionale, no? E ce l'ho sempre, e dentro ci sono anche le prese di uscita, no? Come ingresso, come per le cuffie eccetera, no? E io utilizzavo la cuffia di ingresso, usavo la radio galena che avevo fatto io e me la sentivo ad altissimo volume, proprio con le casse, pensa, c'è un altoparlante che di diametro saranno non meno di 30 centimetri, se non 35 anche, si vede, perché ce l'ha proprio sul frontale davanti dove c'è tutto il panno, no? E infatti si vede il segno di quanto è grande l'altoparlante, e utilizzavo la presa in, utilizzavo proprio per ascoltare la radio galera che avevo fatto io, capito Robè? A certo punto c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, che vuole entrare, ho sentito qualche portantina sotto, vabbè, forse non so cos'è, no sono belle, anche io ne ho una, me l'ha data mio suocero, una di quelle farfisa, quelle grandi, che facevano anche arredamento molto grande eccetera, mai usato, io mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento, ma non ho mai avuto il tempo e soprattutto la pazienza, per imparare uno strumento ci vuole pazienza. Ne ho regalato una a mia figlia, forse ce l'ho qua in stazione radio, non so se è Yamaha o Casio, cosa sia, di quelle elettroniche, lo stesso che hanno tutti gli accompagnamenti, che con un tasto puoi suonare la fisarmonica, poi cambia e ti fa il violino, cambi l'altro e te c'è la chitarra, quelli elettronici sono tutti digitali, mentre quel farfisa che c'ho di quelli di vecchia generazione anni 70, però sono cose piacevoli a chi interessa. No, io di quelli nuova elettronica avevamo fatto anche un amplificatore, però di radiofrequenza 88-108, era mi pare un 90 watt o 100 watt, adesso mi ricordo, e non avevo la scatola, perché lì devi mettere le ventole, scaldano parecchio, ci vuole un alimentatore, era alimentato mi pare a 36 volt, ci voleva un trasformatore grosso, avevo dovuto costruire in officina con la piegatrice, ho fatto tutto il contenitore per metterci dentro questo. Poi un giorno, dopo qualche anno, siamo andati a Monteoro una notte per vedere i cose, i tralicci eccetera, avevamo come amici, e ne hanno buttato uno di quei cassoni di un amplificatore di quelli valvolari grossi che hanno l'alimentatore separato, ed era buttato di aspetta che prendiamo questo, abbiamo messo tutto di lì dentro, adesso poi te li tirano a faccia alle scatole, sai quante ne avevamo poi di contenitori, di cose, poi non ne parliamo di altre cose, apparecchi di luci psichedeliche, quando avevamo la saletta da ballo facevamo luci rozzanti, stroboscopio eccetera, tutti autocostruiti, ci divertivamo. Ok, un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare, se no riprendi tu Giulio. Sì, sono io. Ma tu hai andato prima? Quando? Sentivo un paio di colpi importanti quando stava parlando Giulio. Avanti, Antu, e poi passi a Giulio. Cappa. Andi la vita, saletta, oh. Cazzo, volevo dire talmente veloce. No, invece lavoro io, dietro di lì, ma ci siamo divertiti, dai, mio e mio fratello, e poi tutta la Grecia, dai. Non c'era la Sassari come la nostra, stiamo parlando di, diciamo, la prima volta che abbiamo iniziato 76, però il boom, diciamo, negli anni 80, fino a 86, 87 siamo andati avanti, anzi no, 87 no, dal 78 agli anni 85 è andata la grande, ma venivano da tutto Sassari, quando ancora discoteche non vi ne erano, dovevi andare fuori nei paesi, ma siccome eravamo amici di Paolotto, che all'epoca era numero uno come attrezzature di roba hi-fi, ecco, ce l'aveva tutto lui, infatti c'ho ancora roba di lui, amplificatori, cose che portavano una barca di soldi, ce li dava, poi tieni, erano tutti i campioni della prova che li davano quando usciva un amplificatore nuovo, cazzo e noi, già l'abbiamo spacciata una dudica, ma roba che costava soldi e soldi, mi è rimasto ancora l'amplificatore, un Marantz, il topo di gamma della Marantz è una bestia, quello guai, vale una barca di soldi, e poi delle casse grosse ci avevamo, poi casse elettrostatiche, cos'è che non ne abbiamo preso? Alla fine le abbiamo tutte crepate e ce n'è una, me ne è rimasta, però è autocostruita col woofer da 38 grossa, quella è una bestia, c'ha un driver a tromba che ti mette le mani in testa, che all'epoca era una bella cosa, adesso ti metti a ridere se le vedi, perché con cassette piccoline toccano più di quello lì. Avanti Giulio, per Antonio. Ok, ciao, tu ben entrato. Sì, beh, in effetti è così, ma io ho tante cose. Cosa ti volevo dire? Tu pensa che negli anni 70 io avevo la Gran Prino della Lem, avevo, nella punta ci avevo messo un diodo, ci avevo messo, e quando schiacciavo la portante si accendeva il diodo, tu vedevi, sembrava che la punta dell'antenna, lo stilo, si stesse accendendo, incendiando. Ci avevo messo il diodo, ci avevo messo, e quando schiacciavo la portante e andavo in trasmissione, allora si accendeva, perché comunque giochi da ragazzi di allora. Tu hai parlato di Paolotto, allora conosci bene anche Franco Ennas. Franco Ennas ha lavorato da Paolotto, mi sembra. Ha imparato da Paolotto, ha proprio imparato da Paolotto. Paolotto è un grandissimo tecnico, ma veramente, veramente bravo, bravo, bravo. Tra lui, Crescenco e Bede Graziano erano i tecnici migliori che c'erano a Sassari. Allora, e oggi Franco Ennas lo stesso è uno dei più bravi, senz'altro, nel campo della TV, eccetera, eccetera. Sì, sì, no, io invece quando io ero da Pinovu c'era con me, c'era Coso, come si chiama, Antonio Usai, quello del negozio di lì, vicino a Cabina, vicino su, come si chiama, a Prunzeda, là. Antonio Usai, già lo conosci. C'era lui come radiotecnico, dopo da Pinamu è andato a Pinto su in via Cavuro, mi sembra che sia quella via di Bono, non so, non me lo ricordo. E dunque poi si è separato da Pintus, si era messo in proprio, che è ancora oggi, ancora in proprio, no? Antonio Scarpa. Con Antonio Scarpa ho piazzato centinaia di antenne in tutta la provincia di Sassari, perché andavamo insieme, allora lavoravamo insieme nella stessa ditta e facevamo le antenne, allora le antenne erano solamente primo e secondo canale, e dunque era tutto un sistema un po' particolare, perché sai, e l'irradiazione era scarsa, e allora in certi posti non prendevi segnale, dovevi adattare, quante cose, qualche volta qualcuno ci si andò dentro le tegole, perché nella stanza di vecchie quelle tegole tutte marce, non mettevi i piedi nell'appartamento, ma questo è successo anche. Però con Antonio siamo molti amici, era da ragazzi insieme, ti puoi immaginare, lui abitava in via Sardegna, allora anche lui giovane, il padre perlomeno abitava in via Sardegna, abitava di casa, e per scaldarci d'inverno, no, sul tetto c'era freddo, e facevamo sui terrazzi più che altro, facevamo un finto incontro di pugilato così, e ci scaldevamo, e poi ci mettevamo al lavoro per piazzare l'antenna, sai, mettevamo anche le staffe mulatte, tutto quanto noi facevamo, e abbiamo invaso la città di Sassari di antenne e anche la provincia di Sassari, e quante cose, è una bella storia, insomma, dai. Aspetta, riprendo io, scusa, tanto. Allora, Antonio Scarpa lo conosco benissimo, perché siamo molto amici del figlio, poi è cliente da una vita all'officina, abita a fianco a mio fratello, a Montebianchino, lui. A riguardo di Franco Ennas è morto da poco, penso un mesetto fa, ci ho visto un necrologio di lui. Paolotto era, adesso non so se sia ancora vivo, forse non lo so, io conoscevo molto amico del figlio, di Marco e della sorella, e il signor Paolotto, il padre di Marco, quello lì è cognato di mio zio, proprio perché la moglie moglie, la sorella di mio zio, eccetera eccetera. Lui ha fatto dei lavori allucinanti, l'aeroporto di Roma, lui qua a Sassa ormai non esiste più, ma tutti i sistemi di videosorveglianza dell'aeroporto di Roma li aveva fatti lui, parliamo almeno una quindicina di anni fa. Qua a Sassari ormai è morto, neanche, forse neanche lo conosce la gente, almeno i giovani, ma diciamo 30 anni fa era numero uno a Sassari, videotecnica Paolotto, come non abbiamo nominato a Porcella, tu ricordi Porcella, alla piazza d'antenne? Voglia, con Porcella, con i tecnici di Porcella, con tutti e due, sia Emanuele che signor Chicconi, abbiamo vissuto 20 anni vicini, lui avevano tutti e due, avevano, dopo che erano andati via da Porcella, avevano il laboratorio in via Nuzio Cervi, 100 metri da dove ero io, sulla stessa fila della strada, sì, che ti puoi immaginare, ma qualcosa, Emanuele, Ponzio Pilato, non lavorava con Porcella, era il tecnico di Porcella, sia Emanuele che il signor Chicconi anche. Che il signor Chicconi aveva anche la campagna a Usin, so che è morto anche lui, poveraccio, ma era già vecchio da molto tempo, da quando io ero ancora molto giovane, e tutti i giorni veniva da me, tutti i santissimi giorni veniva da me, se la coglieva la serratura e se la portava in campagna a Usini, e se la metteva attorno agli alberi, perché dice che quando innaffiava la serratura rimaneva umida e dunque la pianta cresceva meglio. Vabbè, comunque. Sì, beh certo, ma è così. E poi ho lavorato anche con, però quello da quando ero elettricista solamente, senza allora avere approccio con la radiotecnica, ero con Antonio Zai, quello di Via d'Italia, il negozio di Via d'Italia, eravamo insieme lì alla Fiorentina, eravamo, poi la Fiorentina fallito e ognuno di noi ha preso la sua strada, e poi Antonio si avrebbe portato il negozio lì in Via d'Italia, mentre io ero finito da Pino Mu, eccetera eccetera, no? Così, lunga storia, robe. Avanti Antonio. Ma Emanuele chi era? Quello che lavorava in Via d'Italia per caso? No, quello lì è Tonino Usai, quello lì era, non Antonio, Tonino Usai. Emanuele era quello che c'era in via Nuzio Cervi, Emanuele, che parlava anche al baracchino, Ponzio Pilato, abitava su vicino a dove abitava prima Natalino, su a Fidegheggio, su in alto, aveva la campagna lì, si aveva costruito la casa, si aveva costruito, è morto 10 anni fa, 11 anni fa, dai, è morto. Per cui sì, infatti mi ricordo molto bene, si era ammalato e ancora era giovane, non era molto anziano, era diciamo qualche anno più grande di me, e allora avrà avuto, quando è morto avrà avuto penso un 67 anni, boh, una cosa del genere. Si è ammalato e purtroppo era spagnolo, era nato in Spagna, però di padre sardo, per quello che si chiamava Piana di cognome. Avanti Robert. Sì, lo conosco, me lo ricordo. È morto ormai 10-11 anni, una cosa del genere, non, né più né meno, esattamente quando io avevo allora 69 anni avevo quando è morto, sì, perché mi ricordo a lui l'avevano fatto purtroppo il funerale 2 o 3 giorni prima che io fossi rimesso dall'ospedale, perché allora ero ricoverato per l'appendicite eccetera. Va bene, dai, avanti, va bene. Sì, ma ricordo una persona veramente in gamba, molto educato, infatti dicevo sempre tu vai bene a leggere la messa, quando parlava lui sembrava un prete che sta leggendo la messa, di un'educazione eccellente. E poi tornando dietro a Porcella, sicuramente conosci il signor Gavino, quello che non alza male voci, Giulio. Gavino l'ho conosciuto addirittura quando lavorava da capitta, perché la Fiorentina era al corso, capitta al corso, corso Vittorio Emanuele, leggermente più giù, 20 metri più giù c'era il negozio della Fiorentina, il negozio dove lavoravo io, no? Il negozio dei lampadari, di fronte, esattamente di fronte al primissimo UPIM che è stato fatto a Sassari. E dunque era già lì, lui era lì da capitta, e la voglia se l'ho conosciuto, era ancora giovane lui quando l'ho conosciuto io, capita roba di 60 anni fa, mi anni circa, sì che oggi mi sembra che ha 90 anni lui, una cosa del genere, sì che ti puoi immaginare, dunque l'ho conosciuto molto bene. Poi è passato la Porcella e lo chiamavano, l'avevano messo il soprannome Gavino la Cambiale, perché quando ho il cliente, siccome Porcella vendeva a cartella, diciamo così, se non andavi a versare la quota mensilmente di quello che compravi, allora ci andava lui, andava, si attaccava al campanello e si metteva a voci, signora la cambiale, e lo faceva sapere a tutto il quartiere che doveva pagare la rata della cambiale. O allora l'avevano messo come soprannome Gavino la Cambiale. Bocca di canna, insomma. Però ti racconto perché lui parla a voce alta, forse la gente, la maggior parte non lo sa. Tu già lo conoscevi perché nella zona tua Bastica, tutto via Coso, via Catalocchino, via Coso, via, come ti si chiama, via 4 novembre. Se volete vi racconto perché lui sta sempre a voce alta. Sì, ma io l'avevo anche letto questo fatto, non so per quale motivo. Comunque l'ho sentito anche qualche mese fa alle poste centrali, sai, con tutta la gente seduta lì facendo la fila per fare le operazioni di sportello, e lui a bordo sempre nell'ufficio postale, era un tremendo, noi da San Gabo, non è che, sì, brava persona, la verità, no, non è che offendeva mai nessuno, però era boccione di quelli pacare, dai, a un chilometro di distanza sentivi a lui, anche se non lo vedevi lo sentivi. Vai Roberto. Allora, a parte lo vedo spesso, come lo può vedere Antonio Mari, perché Antonio quando lavoravano vicino, cos'è, via 49, no, dove c'era via Manozia, dove c'era prima il coso, lui passava spesso. Vabbè, un mesetto fa ero a prendere dei ricambi in via Coso, via 4 novembre alta, dove c'era la ferramenta, avevo lasciato il pulmino, il doblò con la scritta del nome dell'officina, chiata mi giro e inizia a voce alta, e guido, auto, caro, ma a voce, in mezzo a sale, chi gare, e sono girato, e allora ho detto, chi è stata a parlare, non dico il nome di quello che stava dicendo, perché non bisogna dirlo, e ha fatto, perché la conosco, e certo, come parla, e certo che lo conosco, e iniziava a raccontare tutto cosa faceva mio padre, della squadra, di Guido, di Guidato. Però chi mi ha raccontato a me, Giulio, detto da lui, e poverino buonanima Paolino Pinto, su quello che c'aveva, il barbiere in via, che forse lo stesso lo conosce anche Antonio, in via Catalocchino di fronte alla pizzeria Oggiano, l'avete conosciuto il barbiere? Certo che lo conoscevo. Lui, sì, dimmi tu, dimmi, vabbè, sì. Allora dice che il padre, o la madre, adesso mi ricordo, più probabile il padre, era mezzo sordo, non intendia, proprio sordo, non capiva niente, non so cosa gli è successo, forse durante la guerra, non so cosa è successo, era sordo, e allora a casa loro dovevano fare sempre a voci per parlare con loro, era rimasto così da piccolino, perché anche da piccolino lui era sempre a voci, perché il padre era sordo, l'ha raccontato lui, non è che lo sto dicendo io, e me l'ha raccontato questo signor Paolo che è morto, il mio barbiere buonanima, grande persona, e me l'ha raccontato lui, perché ha detto, lo voglio sapere per quale motivo lui era sempre a voci, perché poi è uscito il discorso della cambiale di Porcella che andava a fare pubblicità, nel senso a farsi dare di no, a fare pubblicità, a fare scandalo, e no, non è per quello, perché a casa loro erano sempre, e la sorella dice uguale a lui, tutti a bozzi era. Beh, no, la sorella io non l'ho conosciuta, ma lui l'ho conosciuto benissimo anche quando era molto giovane, sì che ti puoi immaginare, poi lì era una comica tutti i santissimi giorni, quando salivo al corso Trapadè, no, tu non lo so, forse tu non l'hai mai sentito, Trapadè è un uomo che era invalido di guerra, tutti lo prendevano in giro, un uomo che aveva un problema alla mano, infatti aveva una specie di guanto nella mano, di polsino, come lo vuoi chiamare, qualcosa del genere, e andava con un baccolino, andava, perché aveva anche problema alla gamba, e tutti quanti lo sottevano, soprattutto anche il tram quando saliva, pa, pa, pa, come volevo dire, trappate, e allora lui lì cantava le pistole a tutti, era una scena, ti puoi immaginare, allora ne usciva lui, la capita ne usciva, lui a voce, Guido cantando la messa ai tranvieri o alle persone che gli dicevano cosa, mamma mia, vai la comica, le risate che mi sono fatto, mi ricordo la principale, cioè la signora, che era Maite Moody, era la mia principale, no? Quando io ero dentro all'interno nel magazzino dove appunto facevo tutte le riparazioni, facevo gli impianti agli lampadari, si infilavano i fili, si facevano i collegamenti e pronto poi lampadario per l'installazione quando veniva venduto, riparazioni per l'asilo, stufe, tutte queste cose qua, no? Io le facevo in laboratorio. E appena che si sentiva tra padre salendo una signora mi chiamava Giulino, mi chiamava Giulino perché ero piccolo, vieni qua, fin qua, sai, toscani, come parlano loro i toscani, che sta passando tra parete, io correvo sulla porta, diceva lì le risate che mi facevo fare, che da me me le esibisciava sotto dalle risate, è una cosa incredibile, tra parete, poi si aggiungeva Gavino, si aggiungeva, devo immaginare che è andata di concerto, una porca di dai, avanti a tu. Però Gavino mi ha dato pure una cosa a me, non è in tutti i rucchi che sta paraposti, anche quando parava la tidozzi la baciamo un poco, in certi posti, ma anche all'ospedale da poco è stato ricoverato, usava toni un pochettino più bassi, se non si lo facevano in cassa allora si attava a botte. Gabino è una scena, però è una brava persona, 90 anni mamma mia, anche forse anche 91, anzi senza forse anche 92, e beh certo, anche lui è abbastanza anziano, capita, l'ho conosciuto io quando ero ragazzo, che avrò avuto, allora cosa avrò avuto? 12 anni, 13 anni più o meno, lui era da Capita, è entrato da Capita a lavorare, faceva il, cosa faceva? L'ubicinandina praticamente, andava, portava la spesa ai clienti eccetera eccetera, sai, Capita lì era un negozio di generi alimentari, poi a fianco si aveva aperto il bar il Brasil, è sempre lì era lui, mamma mia quanto era ridicolo, vabbè dai, avanti, vabbè. No, allora io di cosa, a Parabà, non Parabà come si chiama, a Trepalè l'ho conosciuto, non credo di averlo conosciuto fisicamente, però nelle caricature a Puglia, quando eravamo piccolini da noi c'era Parabà, mamma mia, non so, forse Antonio è troppo giovane, non se lo ricorda, ma noi uscivamo da scuola, Parabà, quello con le orecchie a sventola, e frequentava proprio di lì, in via Coso, in via Quattro Novembre, via Armando Diaz, via Tempo, un po' cosa arrabbiava, poi ti seguiva, ti voleva picchiare, eccetera. Quindi tu hai conosciuto, se hai lavorato di lì, hai conosciuto anche Trilulia, la signora Dolores, l'hai conosciuta tu Giulio? Signora Dolores, non me lo ricordo, Robe, e chi era? Trilulia, articoli dal regalo, lì al costo. L'ho conosciuto me. Abitava lì via 4 novembre, abitava. De Martini mi pare si chiamava di cognome. Abitava con la sorella lì. Di fronte alla salumeria, adesso c'è la cosa, cioè, adesso c'è un'altra salumeria lo stesso lì. Cavolo se me lo ricordo. Aspetta, allora dopo ti faccio una domanda. Giulio, c'aveva il negozio di articoli da regalo al corso di Giulia Dolores, e più il fratello Germano c'aveva via Calabergo, forse c'era ancora, non so se c'è ancora, angolo con via Cavour, te lo ricordi? No, che aveva il negozio di articoli da regalo, io me lo ricordo, erano giù in fondo però al corso, giù, proprio giù, a livello di piazza Sant'Antonio. Adesso di altro non mi ricordo, non mi viene. Ah no, aspetta, forse, dov'era? All'altezza del Barlurica, allora esisteva la Barlurica, praticamente di fronte alla chiesa di Corso Vittorio Emanuele, all'incirca con l'altezza lì. No, proprio giù, diciamo, prima di portare Sant'Antonio, dai, adesso non lo so, distanza, cosa c'era? Un negozio Andri Perez, cosa c'era di lì? Sì, Andri, quello delle armi là, diciamo, sì. Andri Perez c'era, sì, Dreff, dai, poi c'era Dreff, questi negozi così, e poi invece da Dreff è diventato Ref, perché Dreff era l'iniziale dei tre soci, no? Ho capito, poi però uno si era staccato e allora era diventato solo REF, anziché DREF era diventato REF il negozio, perché uno di essi ci aveva lasciato. Sì, boh, no, non mi ricordo, forse era di fronte allora, di fronte, vicino dove c'era il tabacchino, una volta ci sarà ancora, dove c'era il barbiere, la Pagnina, questa gente qua. E giù vicino al tabacchino. Anto, adesso ricordandoci la persona, tu sicuramente l'avrai conosciuta e sono sicuro che sarai andata anche a casa sua. Sai, così con la tipa Loffia, nel senso appariscente, una donna grande che si vestiva tutta canta, sexy, attraente, brutta del peccato, con i capelli tutti canti trattati, 2 chili di rossetto, tutta in mostra, calze a rete, va a 80 anni. Mi hai capito che sto dicendo? Sempre in quella zona. Quello lì era fissata con il mio principale, un giorno l'ha chiuso dentro, se la vuole baffare a Vittorio, al padre di Daniele. Ecco, hai detto bene. Non so cosa è successo quel giorno, se non mi piscio dalle risate. Quella lì addirittura stiamo parlando una ventina d'anni fa a Losciano, allora si chiamava Città Mercato, un vecchietto l'ha preso e se lo stava facendo. Questo qua gli è venuto, lui fatto a Giumai non muri, uno scandalo totale. Quella lì, lo sai cosa ha fatto un giorno? C'era la cavalcata, c'è presente il bar di Fiori, che allora era ad angolo di fronte a San Giuseppe di Marcello, proprio ad angolo, e c'era un tone, se io mi ricordo la scena fosse, era di lì all'angolo, lei ferma, vestita, era a fianco a me, io una vagonia vicinale, tutta appariscente, tutta truccata, che si vedevano tutte le tette perché c'era questa roba trasparente, era, c'erano quelli che avevano un tone, si candolavano in vista, si sono girati proprio scioccati, perché fa, immaginati uno di paese che non le ha mai viste donne vestite così, fate si sono iniziato a ridere come gli scemi, questi qua era una cosa, il giorno mi sono cagato dalle risate, e lei convinta che se l'era nella Baidendi, forse Giulio la conosce pure. Eri pastore, ci guardi. Ma chi era quella alta donna, alta, bionda, con gli occhiali? No, chi da coso? La regina di Rubattate, chi sarà Rumonte, via Nunzio Cervi, vicino alla pasticceria di quella persona che diciamo noi. Quella un giorno me l'ho accompagnata in macchina, guarda giù. Io, se non mi faceva schifo il giorno facendo battutine e coso, io mi sono spaventato, ho detto, chissà, se mi muore le mani in alto, io me ne scendo la macchina e me ne scappo. Ma facendo battute e spinte. Sì, infatti abitava nel portone a fianco alla pasticceria di Gavino, sì, abitava lì, la pasticceria Muritto di Gavino, abitava lì nel portone lì, ma quella era, una volta aveva ospitato, dice, poverini, sono ragazzi che non hanno un appoggio, non hanno niente, roba di 5 o 6 di questi ragazzi neri, no, di Natale, li ho ospitati a casa, e Dino, il macellaio che c'era lì in via Nurra, siccome lì andava lì in macelleria sempre a comprarsi la carne, e poi che li ha ospitati, gli ha offerto da mangiare, cosa ha fatto? Se l'ha anche fatti, gli ha detto, e poi tarriera, poveretti, sono ragazzi che sono soli, sai, e vivono così, senza niente, e le risate, mamma mia. Guarda, era un personaggio, no, ma questa Pamelona che sta dicendo Antonio, questa è molto, ma molto peggio di quella, questa è proprio una cosa scandalosa. Poi come si vestiva, ma la cosa, mamma mia, non so se sia ancora viva, sì che è viva, l'ho vista da poco, quella invece che sta dicendo tu, Giulio, quella di Via Nunzio Cervi, non mi ricordo come si chiamava di nome, era sopra la pasticceria, quella lì penso che sia morta. Sì, è morta, sì, adesso ti racconto una scena di quella, stava scendendo in via La Marmora, stava scendendo un giorno, no? È passato davanti a un salone, sai, in Bella Marmora, allora a saloni ce n'erano più di uno, saloni barbieri, no? E c'era quest'uomo sulla porta del barbiere, lì è passata, sai, tutta canta di là da rigudo, tutta truccata in maniera evidentissima come faceva lì sempre, proprio da tipo di donnaccia. E quando è passata davanti alla barberia c'era quest'uomo, gli fa, aspetta, non te lo posso dire in questo momento, riprendi. Vabbè, già. No, ma quella lì io l'ho dovuto accompagnare, a parte che dovevi stare attento a farti dare i soldi. Ma adesso non ce li ho qua. Allora, no, aspetti che andiamo a prendere, andare... ce l'accompagno io, non si preoccupi. A chi mi ha detto quella persona che ha nominato tu il figlio, che siamo amici intimi, mi ha detto stai attento a Redina che quella ti brucia. Allora, no, ma adesso non posso venire, a coso, non ce li ho adesso, chi mi può... aspetti che l'accompagno io a casa, andiamo a prendere i soldi, se no macchinano i billi tu. C'era una fa 33 lei, allora. Sì, aveva quella macchina, è vero, ed era sposata o convivente, non lo so, di uno che una volta al mercato vendeva verdure, sì, un tipo con i capelli grigi, proprio grigi, bianchi, che belli bianchi, una persona che tra l'altro era anche un po' distinta, però quando uscivano insieme si notavano, chi è che non le notava, ma che le dai, dopo ti racconto la storia, adesso non posso. Vai Anto, no, già me lo ricordo questa storia. Lui era molto distinto, molto timido, quando è venuto qualche volta non lo diceva, non lo presentava come il marito, non so se era il marito o il compagno, non lo so. Lei lo presentava come un amico, però sapevo che era il compagno o il marito pure. Vai Anto. Oh, per carità, quella famelona, mamma mia, andiamo a ridivenga. E grido, cioè, quella si l'ha chiuso dentro casa, se lo muriamo, venga qui, venga signor Vittorio, che facciamo lavoro, e grido, no, andiamo a ridivenga, privilegiata. Gli ha risate quando lo raccontava. Oh, pianto quando ti tocca portare la bomba, lo sai che ti chiude dentro. Non ne sto più portando. Non mi ha più chiamato poi, perché da lì si è trasferita da un'altra parte. Che ci sta a fare, mamma mia, quella che stiamo dominando noi è proprio allucinante, ma purtroppo ci avrà qualche problema, non è possibile che una donna si vesta in quel modo lì come le ragazzine, ma proprio con queste calze a rette, tutta in vista, tutta truccata, poi si va a ribere, tipo tre cose che mi fanno tutti, quella la signorina, nominalmente guida, che piaceva a Fantuzzi, che ci faceva quei capelli tutti sparati. Sì, la signorina, come si chiama? Silvani. Carina, peggio, è tutta barriduta, vado anche di frullare, va, dove devo andare chissà, dai via vai. Io lo so, ma ce ne sono state altre, c'è un'altra, non si fanno nome, ma qualcuna ne ho visto, ne faceva di situazioni di situazioni particolari. Noi quando avevamo ragazzini telefonavamo a una certa persona che non si fa il nome qua, penso che sia morta, ma quella lì dicevano che aveva problemi allucinanti, e quella ti rispondeva al telefono le cose, mamma mia, e abitava in via Principe di Piemonte, quelle zone lì, ma noi da ragazzini parliamo 15 anni, 16 anni, facevamo la telefonata a questa qua, guardavamo la guida telefonica, dico solo il nome, dai, il cognome non si dice, Vanna si chiamava, che ha male risate con gli amici. Vabbè, adesso te lo posso raccontare, quello che ti volevo dire poc'anzi, è passata davanti a questa barberia e c'era questo uomo sulla porta, no? A un certo momento, è dal 40 della Darigudo, molto, molto appariscente, no? come sempre stata, questa donna passa davanti e le fa questo uomo, signora, che bel culo che ha, eccetera eccetera, lì non è che si sia scomposta molto, si ferma un istante e le dice, se lei si curica una notte con mio marito glielo fa uguale al mio, così le ha risposto Robe. Ce li mai direi? E veniva sempre nel negozio accanto alla mia bottega, no? Che c'era un negozio di generi alimentari, comprava a debito, da lui non pagava mai, e poi quando si faceva un po' di debito spariva e non ci andava più a comprare, dopo un bel po' di tempo ritornava magari pensando che la signora Lina si fosse dimenticata che lei doveva pagare il debito che aveva prima, no? E quando glielo diceva se negava, no, io ho pagato tutto quanto, io non me ne metto i debiti, no, assolutamente no. E te le immagini, Ma l'ha fatta roba di 3 o 4 volte, signora Lina, poveretta, glielo dava sempre, quella lì era una bella Madonna, sapeva che questa qui era una morta di fame, allora gli alimenti glieli dava ugualmente, anche se sapeva benissimo che rischiava di non vedere mai i soldi o robe. Aspetta, c'è qualcuno che stava andando sotto, lo sai come si chiamava? Aveva venuto il nome Raimonda, la regina di Rubattattu, la chiamavamo. No, io non lo so, non la conosco io. C'era qualcuno che vuole entrare, non lo so, avanti che vuole entrare. Quando parlavi tu sentivo portante, qualcuno mandando portante. Vai Antu. Non ho sentito nessuno io. Ma carizzai. Una volta a Codari Frupesa a Bamerona, ero in piazza del Sindi, mi sopravvo. Allora vendevano le pizze, su, facevano le pizze. L'ha detto, buoni noghe! E Garegito. Buoni noghe! Andavo con i bastoni. Già lo so. Scusa un attimino, bianco a me un attimino, riprendo subito. Ok. No, non l'ho conosciuta quella che state parlando voi, non so, io quella non l'ho conosciuta. Ma chissà di via non so c'è, via la Giugunici da me, era vicino, eravamo nella stessa strada praticamente. Lei ci abitava, io ci lavoravo in quella zona, per cui l'ho conosciuta molto molto bene. Poi conoscevo anche lui, l'uomo che aveva, che era prima, lui era un fruttivendolo, vendeva più che altro verdure al mercato, vendeva. E poi ce l'ha messo insieme a questa donna, e l'abbiamo fatto una affare, alla busta. Se poi si erano sposati, questo non lo so, ma non credo però. Però convivevano insieme, perché erano sempre, per anni sono stati insieme. Sì, sì, ma la manteneva lui a lei. Io penso sia stata più una cosa di convenienza. Probabilmente era così. Però lei quando parlava mio marito, ma mio marito, per modo da dire, no, io non ci ho mai creduto che fossero sposati, anche perché lei è una bastona di quelli a mille una notte, ma cari dai, non ne voglia manco un barbone se la basiami, però per dire no, e intanto lei ci tentava, ci provava, e sapesse quanti ragazzi neri che passavano lì nella strada, si invitava a casa, che mi faceva ridere a Dino, il macellaio che c'era lì, quello la sfotteva in una maniera impressionante. E beh, lei è tutta convinta, no? Anche perché Dino parlava in un certo modo, con una certa filosofia, no? E le faceva credere che lui era d'accordo che lei si comportasse così, in quel modo. E d'altra canta convinta, no? Le risate che facevamo, no? Soprattutto quando se ne andava dalla macelleria, io e altre persone lì che ci trovavamo di solito tutti i sabati mattina, che anch'io andavo a comprare la carne lì, no? E lei puntualmente arrivava. Proprio allora che ci andavo io, anche perché il sabato mattina lavoravo, e allora prima della chiusura andavo e facevo la spesa della casa, no? E ci andavo a fare apposta, andavo a dare via le risate, incredibile, io e la buon'anima del signor Renato, Renato Fischeda, le risate che ti abbiamo fatte, Antonio Fiori, Costantino Fiori, Tajenti, tutte le risate, per carità, si prendi io, vabbè. Allora, tu non so se l'hai conosciuto Franco, quello che abitava di fronte a lui, nello stesso palazzo, non so se era nello stesso piano, ci raccontava un po', che era il cameriere di quella persona che hai nominato tu, quando facevano i matrimoni, di quella cosa, di quella via dove abitava lei, hai capito? Quello che faceva il tuo stesso lavoro, di quel Franco stai parlando? No, lavoro stiamo parlando, tu hai nominato quella persona poco fa, Gavino, voi non diciamo altri particolari, che sopra di Raimondo abitava sopra quel locale, diciamo, con l'attività di coso, e c'era Franco, non so se erano di fronte di porta o cosa del genere, ma raccontava certe storie, siccome io sono molto amico di Giovanni, il figlio del padrone di quell'attività che stiamo dicendo, di signor Gavino Buonanima, Franco abitava, non credo, allo stesso pianerottolo, ma raccontava le sue storie. Franco era quello con i baffi che faceva il cameriere, te lo ricordi? Ah sì, che era praticamente era un dipendente di Gavino, era dipendente di Gavino, sì, ma me lo ricordo, poi abitava lì. No, adesso stavo pensando invece a quello che guida il carro attrezzi del comune, no, quello abita nell'angolo dalla parte di via Castelleredda, mentre tu, Gavino era proprio nel portone dove abitava lì. Sì, me lo ricordo benissimo. E noi un po' di notte andavamo di lì la sera, quando eravamo ancora signorini, non signorini, cioè avevamo le ragazze, però molte volte andavo su da questo qua amico, che era molto amico di Giovanni, e c'era un tipo, mi ricordo come fosse, lui aveva un 126, noi ci nascondevamo sopra, ma parlando ragazzi di 20-22 anni, salivamo io, Toni, Giovanni e altri amici in casa di Franco, molte volte ci faceva una spaghettata la notte, ma parliamo notte le 10 e mezza, le 11, anche di più, e lui c'aveva un 126 questo tipo, ed era uno che stava con lui lo stesso, parcheggiava la macchina, si faceva tutto il giro prima di rientrare a mettere, si metteva a fare il cucù, come dicevamo, mi adesso fa il cucù, e si guardava la macchina da fuori per vedere se si vedeva qualcosa dentro, si metteva, poi tornava indietro, noi lo prendevamo in giro, sicuramente quello l'avrei conosciuto lo stesso. Sì, che l'ho conosciuto Franco, a voglia, te lo sto dicendo, quello lì collaborava nella pasticceria, era lì, collaborava, ed era sicuramente dipendente appunto di Gavino, era dipendente senz'altro di Gavino. Ma non so che fine ha fatto quello, non so se si ritrova ancora, se è vivo questo, però io sono tantissimi anni ormai che non l'ho più visto. Ehi, ok, va tu. Non me ne ammento di Vito, forse perché è passato un po' di tempo. Quel Gavino Murito, cioè, ne porto io me la memoria a loro, lo sai. Quanto tu col lavoro che fai tu, penso che come sei entrato negli appartamenti tu, pochi enti, pochi mestieri c'entrano a avere una informazione su tante, è come i postini, sono quelli che portano col lavoro tu, che fanno il lavoro tu, e il postino sono, vabbè magari adesso il postino non entrano più in casa, però quel lavoro che fai tu, che riescono a entrare negli appartamenti e nei pettegolezzi, penso non venisi a neanche di lavori. Non è nei pettegolezzi o... che non è che dico tutto quello che succede, no? È che ci ho goduto di tutti, non so dove abitano tutti, e quindi un po' di gente li conosco. E non lo so, per quello ti ho detto che tu, con il lavoro che fai tu, ne avrai girato un po' di roghi, per dire le zone, non dico tutto Sassari, però la maggior parte delle zone dove ci sono quelli che diciamo, dove c'è l'attività, dove stai tu, li conosci tutti, perché tutti quando vanno a prendere quel tipo di prodotto che vendi tu, devono per forza passare da te, anche se qualcuno magari vai e se la prende lui, per comodità o qualcosa, ma le persone un po' più grandi ce le vari vanno e se la fanno portare, eccetera, eccetera, per cui ne avrei visto in appartamento di cose di tutti i colori, mi immagino, ma così tanto. Sì, tutto di più, tutto Sassari ho fatto quasi io. Cioè, non quasi, tutto Sassari. Tutti li conosco. Qualche cosa mi sfugge ancora, però io in tanti anni d'attività li conosco di gente strana, di gente fanfarrona, di tutto di più. Giulio? Sì, adesso ti racconto una storia. La macelleria che ti ho detto poc'anzi, no? In questa macelleria, sempre lì che c'era tanti anni fa in Pianura, a un certo momento c'era gente, no? Entra una ragazza, era, e c'era anche una donna che faceva punture, le punture per chi ne aveva bisogno, no? Andava da lì e lì magari si prendeva una piccola parcella e faceva la puntura. Era abbastanza conosciuta, ormai sono tanti anni che non l'ho più vista. Entra questa ragazza e sul vassoio del banco del macellaio c'era, no? questo vassoio con i granilli, no? E questa ragazza non sapeva cosa fossero, e allora ha fatto: signor D, cosa sono questi granilli? E le fa: granilli, ha fatto questa ragazza, no, non sono, i testicoli sono, mi gli ha detto il macellaio. E quella donna che faceva le punture pronta, te lo dico in sassarese però abbreviato, chissà quanti vuoti le abbia di mano. Non li conosci, chissà quanti vuoti le abbia di mano. Ma lo immagino poi. Allora, certe persone. Stavo dicendo, tu, visto che hai bazzicato la zona del monte, avrai conosciuto la Cosseddu. Ehi, Cosseddu, addirittura quando eravamo ragazzi giocavamo con Giovanni, però no, con Giovanni, che era praticamente il più giovane, l'ultimo che è morto. addirittura eravamo nella stessa squadra, giocava anche lui nella squadra dove ho iniziato io a giocare al calcio, Giovane Cossetto purtroppo si era ammalato perché era un fatto genetico della famiglia, tutti quanti si sono ammalati a quel modo, allora uscivano fuori di testa purtroppo, però Giovane Cossetto era un ragazzo che aveva anche studiato, era diplomato, era sposato, aveva un figlio, però poi la moglie l'ha abbandonato perché lui si era ammalato così e la moglie non ci stava a combattere la sua malattia. Sì, Giovanni Cossetto, o stai parlando dell'altro, di quello più grande, non mi ricordo come si chiama, insomma il tifoso della Torres, quello che andava a giocare alla Torres. Di Gesuino sto parlando, perché era più grande di Giovanni Gesuino. Gesuino è il più grande, sì, certo. Poi c'è un altro ancora, c'è un altro che ha un negozio di assortimento per ristoranti eccetera, quello c'è ancora un grande negozio dove c'è tutto questo assortimento che vende piatti, bicchieri, posate, tutte queste cose, insomma tutta l'attrezzatura che serve per un ristorante. C'era quello, ma quello già è sano, la verità, quello è tranquillo. Mentre là quello si chiama, se ricordo bene Sergio, adesso non mi ricordo molto bene, quella così, Gesuino, tu non l'hai mai sentito quando è andato in televisione a cantare, tu non ricordi, mai visto la Bibi? A me infatti volevo arrivare a quello, aspetta, diciamo Antonio se l'ha conosciuto, Antonio l'hai conosciuto a Gesuino? Non credo che lo conosci, Aia. Tutti li conosco io. E a Cimbrana alcuni scilli. No, chi è Cimbrana? Ma tu lo conosci a coso, a Luciano Cimbrana. No, non ce l'ho presente. Dove è che zona stava? A Dolce. Ah, beh, avete parlato in due. Dove? A Lotta Dolce. Come che ci avete stasera, ragazzi? Cimbrana, che ballate, raga bianca. Tra due argomenti, la sera conosciamo solo questi, invece entri tu, ne sollevi un altro e discutiamo di quello che proponi. Cimbrana, già l'hai riconosciuto, Luciano, che sono Lugrassoni, stai dicendo, non tu? Magro Luciano, guarda, con gli occhiali. Però maledizione, c'è una cosa di buono, che sa cantare, cioè sa cantare bene. Chi si travagliava, mi pare fazia un becchino la voce. Però fa una cosa di buono, tutti i bigliani in baronguro, però sa cantare bene. No, io non lo conosco, la verità. Ah, io Claudio, dai, metti, tira fuori un argomento e così cambiamo discussione. Non è un argomento, io vi sto ascoltando, mi sto guardando la partita, però che fa? Non mi pare che siamo in barra e tutto ballato. Anche voi. Quanto è il Milan, Claudio? Una zero. Diciamo, fa vedere dei vecchi tempi, se mi fa vedere. Cioè, le persone che storiche di Sassari, non è che stiamo parlando di chissà cosa, anche quello ci vuole l'argomento. Ti sto dicendo niente, parla, non mi interessa, mi sto guardando la partita che ho. E cosa, te lo ricordi Giulio, a Peppina, conosci da... Peppina, no, non la ricordo. Che cacchio, mi meraviglio di te, Peppina la vecchiaia alla stazione non l'hai mai vista. No, non me la ricordo questa, boh. Non so chi sia, boh. Io a Sassari era la più conosciuta di tutti, nel senso era un'istituzione, cioè una, a livelli di Gesuino Cossetto, forse delle donne era la più conosciuta di tutti. Poi c'era, come te si chiamava, Guido, quello pizzicato che stava sotto il portici del vecchio Upin, come si chiama quello lì, il nono c'è di gatto, aiutami a tu. Non me lo ricordo adesso, non me ne ammento. Maria la Pazza. Che andava, era mezzo sul 5 era. Andava da un amico mio, andava al panificio. Dice che un giorno andava qua a me al panificio toscano, da un amico mio, si dice una dita e farà due tre saraggezza. Aiuto! Le risate che ci hanno fatto. No, qua non far raccontare argomenti, sennò guai. E cosa? Tu avrai conosciuto anche vicino a Capita, c'era Mario Francese. Mario Francese, conosciuto l'hai Giulio? A voi adesso l'ho conosciuto. Aveva due funzioni di fronte praticamente a Capita, poi ne aveva anche uno al corso. Sì, che si era sposato con quella, con quella, con quella donna di nomina un pochino alterata. Sì, Peppina, che hai detto Peppina? Quella che andava sempre in giro fumando e attraversava le strade così senza guardare se passavano macchine o meno, che poi è stata investita qualche anno fa in via Pascoli a Muta. Mi pare che lei è grande, c'è la mia donna grande. La donna grande, allora, la figlia del calabrese, forse il padre vendeva scarpe lì in coso, di fronte al mercato, in quella piazzetta di via Mercato. Adesso non mi ricordo come si chiama, forse era quello, di quello stai parlando. Sto parlando di quella persona lì io. L'ho conosciuta benissimo, sì. Sì, l'ho conosciuta benissimo. Vedi, quella lì sembrava una morta di fame, che in realtà era una stracciona, una cosa, però era una possidente, perlomeno il padre era un uomo che possedeva diversi appartamenti. Io lo so perché gli ho fatto dei lavori al padre, il padre era calabrese, era un commerciante, vendeva scarpe nella bancarella, però lui abitava nelle casette in Canada, abitava. Però aveva dei magazzini, aveva degli appartamenti, aveva un appartamento lì in Piazza Tola, straordinario, antico proprio, dove c'era una volta, dove c'è adesso quello dei coltelli, su all'ultimo piano, c'è un appartamento che ci